normal. Πάρε μου, το κάνω. Ma fa spinta oltre gli aria senza il cerretto ma non lo sai, io spero che ti riporti abbiamo cucunottile dopo che treno è il cucunottile nel due sta fritto che deve essere il mio figlio fritto questo deve essere un quattro ma lasci ma lo tira al giro lasciamo danzi un cu basta burrata Ai ci vuoi tirare con l'andato mi lascio la monta. Calcola. Sì. Sono arrivo. Ho scuola su Zim che la che io sono la botte. Ehi. Arrivo. Io con la pete. Sorry. Da matto polo vette muro mangiam. Tenci botti ripollo in me. Dorre da pure un sci. Bravo. Io sto buono con la selezione. Calcio. Il Devo questa chemo, può fare la porta. Il pomento fa pulire, sì. Non sto parlando. Non è che lui, tu lì, non è che lui. Non è che lui. Non è che lui crede, perché mi ha fatto una massa. Basta là, che basta con i mani. Guardi, rimuli. Ho questa cosa, perché è una bocca. Ah, è un po'. Spiega la fuga. Che faccio? Si deixa levar até aí, lá no punto, ele vê se está lá, já faz. Sim, porque eu estou na tela de arraque. Que te pega, né? Mar, vai bem mais com o ponto. Vamos! Vai bem ponto ali. Vai bem com o stane aqui, Ru. Vai bem com o stane. Vai lá na rocha, não. Vai fazer isso, gai. Não diga na rocha, não. Vai assim. Vai lá. Depois é boa, é boa, depois é boa, é boa. Correr. Já começa a correr, se monta mesmo, fica assim. Boy, eu vou matar com ele. Boy! Boy, eu vou matar com ele. Aí fica ali no chão.